il 14% per la prima puntata del programma di Santoro, 800.000 i contatti sul web. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Che una nuova perturbazione stesse arrivando in Liguria e non solo si sapeva, in effetti era già scattato nei giorni scorsi il piano di evacuazione dai paesi interessati dall'alluvione del 25 ottobre nelle Levante Ligure. Le piogge questa notte sono puntualmente arrivate, ma con una violenza che forse non si prevedeva. In particolare difficoltà in queste ore Genova, con tanta gente intrappolata in strada, strade peraltro invase in molti punti della città dall'acqua. Vi racconteremo in diretta che cosa sta succedendo fra poco. Adesso invece andiamo a Cannes per le ultime battute delle G20, un vertice su cui è piombata poco fa una notizia, una conferma ufficiale che il governo greco ha rinunciato al referendum sull'euro, sul piano di aiuti dell'Unione Europea e sul piano di salvataggio con le nuove misure annunciate nel paese. Un vertice contrassegnato questa mattina dal mistero sull'offerta d'aiuto all'Italia da parte del Fondo Monetario Internazionale. Allora, per tutti i particolari sentiamo in diretta da Cannes l'inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Buongiorno Gerardo. Allora, che cosa ci puoi dire di questa vicenda legata al Fondo Monetario Internazionale? È stata una notte di trattative all'interno dell'Eurogruppo, cioè i paesi dell'Eurogruppo che fanno parte del G20, oltre al presidente americano Barack Obama. L'idea è quella che il Fondo Monetario possa in qualche modo intervenire su quei paesi più deboli, che rappresentano quindi un elemento di grande fragilità all'interno dell'euro, come Italia e Grecia. Ma non vi è ancora, secondo fonti anche europee, nessun programma del Fondo Monetario per quanto riguarda l'Italia. C'è una disputa quasi linguistica che si sta giocando in queste ore tra chi parla di consigli, come la delegazione italiana, e chi parla di monitoraggio. Monitoraggio in realtà presuppone anche l'invio di ispettori che possano vigilare sull'attuazione dei programmi di riforma. Ma si precisa, non è una situazione come quella degli anni 70, quando ministro del Tesoro era loro Gaetano Stammati, e l'Italia si assunse una serie di impegni, ma chiese al fondo 450 milioni di dollari, ma chiaramente quella era una condizione, diciamo, diversa, in cui c'erano in gioco altre situazioni. Adesso la situazione è questa, che praticamente è in corso ancora il vertice allo studio il comunicato finale, nel quale sono ovviamente elencati tutti i problemi. Per esempio, si è già trovato un accordo per quanto riguarda il monitoraggio sui bonus e le retribuzioni bancarie. Quindi una, diciamo, convenzione... che la situazione dovrebbe chiarirsi nel corso del pomeriggio. Sicuramente nei prossimi collegamenti potremo essere più chiari anche su questa faccenda legata alle parole, quindi o un commissariamento più spinto, ovvero invece solo consigli. Sentiamo che cosa succede a Roma, perché il governo italiano naturalmente smentisce, parla di una semplice offerta di consigli, come diceva poco fa Gerardo Pelosi. Vincenzo Miglietta in diretta da Montecitorio. Sì, buongiorno. È così, restano dunque da definire a livello ufficiale i confini dell'intervento dell'FMI nei confronti dell'Italia. La differenza tra i due termini non è di poco conto, lo dicevate da studio, i consigli si possono rifiutare, viene spiegato anche qui a Roma dal Ministero dell'Economia, il monitoraggio sia di fatto un commissariamento, no, ed è questo che preoccupa Palazzo Chigi. Stretto tra la crisi economica e i subbugli nella maggioranza, si vorrebbe evitare in sostanza nella coalizione di governo la sorveglianza di un secondo organismo internazionale dopo quello europeo. Il ragionamento del e della coalizione seguente: con il maxi emendamento presentato a Cannes l'esecutivo ha fatto il suo dovere, iniziando a dare le risposte chieste dal Consiglio europeo ed indicate nella famosa lettera dello scorso 26 ottobre. Discorso questo che coinvolge direttamente anche l'aiuto concreto all'Italia da parte del Fondo Monetario Internazionale. L'Italia avrebbe declinato l'offerta del numero uno dell'FMI, Lagarde, si parla di una cifra per ora intorno ai 45 miliardi di euro, ritenendo che le misure in via di approvazione siano più che sufficienti. Non possiamo accettare aiuti economici diretti, avrebbero spiegato fonti di Palazzo Chigi, ne andrebbe dell'immagine del governo e vorrebbe dire arrendersi alla speculazione internazionale. Berlusconi ci ha esposto alla crisi e al dileggio, commenta intanto dall'opposizione Bersani. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. A proposito di questo mistero che riguarda anche i termini, c'è un'agenzia che leggiamo insieme, solo un titolo a questo punto. La fonte è autorevole. Barroso ha detto poco fa: Italia ha chiesto monitoraggio dell'FMI, quindi potrebbe essere questa una dichiarazione che chiarisce un po' le cose. Aspettiamo di vedere altri particolari. Naturalmente a Roma è molto accesa la discussione all'interno della maggioranza, alle prese con pezzi che se ne vanno e numeri che non tornano più. Ci aggiorna Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno. Il maxiemendamento inizierà il suo iter al Senato, dove i numeri sono più sicuri per il governo, ma intanto tutti i ministri sono d'accordo ad escludere il governo tecnico. Niente ammucchiate o larghe maggioranze, dice Ignazio La Russa, mentre Renato Brunetta risponde così ai microfoni di Alessandro Milan. Io non capisco questa storia del passo indietro, passo in avanti. Mi sembra una mazurka un po' anomala, un po' banale. Il governo governa, il Parlamento dà il proprio consenso se c'è la maggioranza, se non c'è la maggioranza si chiede nuovamente il proprio parere. Si va a votare. Il governo tecnico no. Io lo considero un golpe, vede, il governo tecnico. E anche sul possibile ricorso alla fiducia il ministro Maurizio Sacconi a frenare: non se ne parli ora, chiosa, mentre si iniziano a contare i numeri in Parlamento. Questa mattina l'ultima defezione, quella di Carlo Vizzini al Senato, che lascia per entrare nell'UDC. Ieri avevano abbandonato il partito del Premier i deputati Bonciani e Di Polito, e a Montecitorio, lo sappiamo, i numeri sono inferiori. Spiega il perché di questa fuga il deputato UDC Roberto Rao. Evidentemente non si riconoscono più in questo governo, che non riesce a governare, non riesce a far fronte alle emergenze di questo paese, un'emergenza che stiamo vedendo anche oggi assume toni drammatici. Allora che fanno questi deputati? La prima cosa, guardandosi in giro, il primo interlocutore chiaramente è un partito che è nel Partito Popolare Europeo, come l'Unione di Centro, che è un partito con valori e programmi molto simili. Per quanto riguarda i radicali, è improbabile che votino la fiducia al governo. Una cosa è valutare le proposte nel merito, altro è votare la fiducia, spiega Silvio Vitale, mentre il PD si prepara alla manifestazione di Piazza San Giovanni domani a Roma. Parteciperanno anche Antonio Di Pietro dell'IdV e il segretario CGIL Susanna Camusso. Per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Abbiamo in questo momento un aggiornamento della notizia che vi ho dato poco fa. La fonte è il presidente della Commissione Europea Manuel Barroso, che ha dichiarato a Cannes: l'Italia ha deciso di sua iniziativa di chiedere al Fondo Monetario Internazionale di monitorare i suoi impegni. Ne sapremo naturalmente di più tardi. Adesso ci aggiorna sull'andamento dei mercati finanziari Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah. Buongiorno. Allora cominciamo subito con la reazione dello spread fra il BTP e il Bund tedesco. Ormai non facciamo altro che monitorare prima di tutto questo rapporto prima della borsa. La forbice fra i due titoli è tornata leggermente ad allargarsi, poco fa 430 punti base, quindi il rendimento del titolo decennale italiano è risalito sul 6,22%. Le notizie che avete appena dato hanno avuto un po' di impatto in borsa, perché la mattinata era partita molto meglio, tutti segni più sui listini del vecchio continente. Adesso invece abbiamo dei ribassi che sono particolarmente forti a Francoforte, che sta perdendo quasi un punto, Parigi meno 0,58%, Milano meno 0,56%, invece rimane positiva Londra più 0,83%. Resiste l'euro sopra 1,38 rispetto al dollaro. Peraltro oggi, al di là di tutte le notizie che arrivano da Cannes e che riguardano anche il nostro paese, oggi c'è un'importante statistica che arriva dagli Stati Uniti, e quella sull'andamento del mercato del lavoro, per cui tra qualche minuto direi avremo anche questo importante dato che potrebbe dare nuova direzione anche al mercato appunto europeo. Bene i bancari, a Piazza Affari bene oggi anche il cemento, non tutti i bancari vanno bene, c'è un po' di incertezza, a scendere di nuovo anche la Galassia Fiat. Direi che per ora è tutto. Grazie Deborah. Di crisi economica ha parlato anche il capo dello Stato nel giorno della festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il momento è molto difficile, molto duro per il nostro paese. Quello che è essenziale è questa bella partecipazione. di tutte le generazioni. 4 novembre, festa delle Forze Armate, giornata dell'Unità Nazionale. Il pensiero del Capo dello Stato anche oggi non poteva che essere per la grave crisi economica. Così ha parlato Napolitano al Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare a Bari, dove ha deposto una corona, e così aveva scritto nel suo messaggio inviato per l'occasione: stiamo vivendo una crisi senza precedenti per intensità, durata ed estensione, con scenari internazionali carichi di tensione, ha sottolineato il Capo dello Stato, esortando però gli italiani a guardare al futuro e non a limitarsi a celebrare il passato. Una giornata che si è aperta con la deposizione da parte del Capo dello Stato di una corona di alloro alla tomba del Milite Ignoto, alla presenza del Ministro della Difesa, dei Presidenti di Camera e Senato, dei vertici militari, mentre il Presidente del Senato Schifani ha deposto una corona di fiori alla memoria al Sacrario di Re di Puglia in provincia di Gorizia. Stasera il concerto in Piazza del Popolo del maestro Ennio Morricone. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 33 minuti per l'intervento al cuore su Antonio Cassano questa mattina, per sanare la malformazione cardiaca che sabato sera ha causato un ictus ischemico all'attaccante del Milan. L'intervento è stato eseguito dal professor Mario Carminati. Sentiamolo, intervistato da Nicoletta Carbone. L'intervento è andato molto bene, più che intervento chiamiamola procedura, perché non è un intervento chirurgico, ma è una procedura interventistica. Ha avuto successo, nessun problema, e Cassano sta molto bene. So che leggendo i comunicati non ha perso comunque il suo buon umore anche in sala operatoria, professor Carminati? Sì, assolutamente, era molto sereno, molto tranquillo. Abbiamo chiacchierato subito al termine della procedura, eravamo entrambi sorridenti perché entrambi soddisfatti del buon esito della procedura, quindi tutto bene. Professore, lei di che squadra è? Io sono interista, veramente. E lo sapeva Cassano? Lo sapeva. Adesso parliamo della MotoGP, che torna all'insegna del ricordo di Marco Simoncelli. Un piccolo gesto per non dimenticare e per andare avanti col cuore più leggero. Sono tanti i piloti che renderanno omaggio a Marco Simoncelli nell'ultimo Gran Premio della stagione a Valencia. Tra questi non poteva mancare Valentino Rossi. Il 9 volte campione del mondo ha messo un piccolo numero 58 con la scritta SIC all'interno del suo famoso 46 sulla parte frontale della Desmo 16. Ma c'è dell'altro. Rossi avrebbe fatto preparare un casco speciale, probabilmente una replica di quello usato in gara da Marco Simoncelli. Ognuno a suo modo, ognuno coi suoi ricordi. In pista, con il numero 58 sulla moto, anche Loris Capirossi, che per la gara di Valencia rinuncerà al suo 65, e Nicky Hayden. Sulla Ducati dello statunitense compare la scritta SIC nei nostri cuori. Alvaro Bautista indosserà un casco con il 58 e la scritta Super SIC. Infine non poteva mancare l'omaggio di Gresini. Nel box del team di Simoncelli c'è una grande foto del pilota con la scritta «È stato un onore e un privilegio lavorare con te». Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Riprende GR24, queste le notizie più importanti. Gente intrappolata in casa, i negozi allagati, le nuove piogge stanno mettendo in ginocchio Genova. Ci collegheremo tra poco con la Liguria. L'Italia ha chiesto un monitoraggio al Fondo Monetario sui tempi delle riforme. Napolitano dice crisi senza precedenti. Cassano, intervento al cuore perfettamente riuscito. Il professor Carminati a Radio 24 ha detto: abbiamo chiacchierato e sorriso anche in sala operatoria. Share fino al 14% per la prima puntata del programma di Santoro. 800.000 i contatti sul web. E ripartiamo appunto da quanto sta accadendo a Genova. Le piogge stanno mettendo in ginocchio la città. Ci aggiorna in diretta Andrea Ferro. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno Enrico. Con il passare dei minuti la situazione si fa sempre più drammatica. Squadre di sommozzatori con gommoni e mezzi anfibi sono in azione nei quartieri di Brignole, Borgoratti e San Fruttuoso per soccorrere persone intrappolate all'interno di negozi, supermercati e portoni. In alcune strade l'acqua ha superato abbondantemente il metro e questa bomba d'acqua che da ormai 3 ore flagella Genova ha fatto salire velocemente il livello di tutti i torrenti. A Marassi mezz'ora fa il Ferreggiano è uscito dagli argini all'altezza di una passerella. Non ci sono conseguenze per le persone. È esondato anche lo Sturla. L'onda di piena starebbe provocando gravissimi danni. Ma anche il Bisagno e il Polcevera, i due principali torrenti cittadini, fanno paura. Pensate, fino alla notte scorsa erano praticamente in secca. E se continua così, straripereranno tra non molto. contrariamente ad altri comuni liguri, a Genova oggi le scuole sono rimaste aperte e quindi ci sono grossi problemi per il deflusso degli studenti, soprattutto per i bambini delle elementari. A San Martino ci sono difficoltà per l'evacuazione di un asilo, i bimbi hanno raggiunto il piano superiore dell'istituto e attendono i soccorsi. Due persone sono intrappolate all'interno di un magazzino dell'ospedale San Martino, questo è un flash di pochi istanti fa, si attende l'arrivo dei sommozzatori. È chiusa l'autostrada 12, lo abbiamo sentito nel precedente flash, con la viabilità tra i caselli di Genova Est e Nervi, e ci sono difficoltà anche per i collegamenti ferroviari. L'ultimo flash dai quartieri, sono notizie in tempo reale che rendono la drammaticità della situazione, giunge dalla Val Bisagno, a Molassana e Struppa. L'acqua starebbe raggiungendo ormai i primi piani. Nelle zone alluvionate dello Spezzino al momento piove, ma debolmente, chiaramente c'è apprensione per quello che potrà succedere nelle prossime ore con lo spostamento della perturbazione verso Levante. E per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro e buon lavoro naturalmente in questa situazione sicuramente difficile. E alle scuole e all'alluvione è dedicato oggi l'appuntamento con Controluce in onda tra poco più di 10 minuti su Radio 24. Parliamo ancora di alluvione, oggi parliamo di quella in Liguria e Lunigiana, 55 anni fa, quella di Firenze. Un'eccezionale ondata di maltempo sta... Se non vi dessimo delle date, questa storia assomiglierebbe a quella che vi abbiamo raccontato per le Cinque Terre. Ma qui siamo invece nel 66 e a Firenze. Quell'autunno era stato molto piovoso, aveva smesso solo ad ogni santi. Il 3 novembre invece la pioggia scendeva a secchi, ma nessuno si preoccupava dell'eventuale piena dell'Arno perché era, come si diceva allora, un classico di stagione. La notte tra il 3 e il 4 novembre la piena dell'Arno iniziò però a devastare Firenze. Il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Verso le 10 del mattino l'acqua aveva già raggiunto i primi piani delle case. Soltanto verso sera l'Arno cominciò a rientrare. Quello che avvenne dopo l'alluvione è forse però la pagina più emozionante che si possa raccontare, perché mentre l'Italia evidenziava l'assoluta mancanza di una struttura centrale con compiti di protezione civile, arrivarono invece migliaia di volontari da ogni parte d'Italia ed Europa. Li chiamarono gli angeli del fango, erano quasi tutti ragazzi che lavorarono per giorni e salvarono le opere d'arte. Noi e i libri. Noi cerchiamo di portare l'aiuto possibile, materiale. Da Parma siamo arrivati in 40, ci siamo messi a disposizione delle autorità e ci hanno diviso in squadre. Noi ci siamo, diciamo così, specializzati nei quartieri di Piazza Gavinana. Anche pochi giorni fa abbiamo visto centinaia di volontari, giovani, arrivare nelle Cinque Terre e rompersi la schiena nel fango. Anche questa è la nostra meglio gioventù e la cosa che scalda di più il cuore è che c'è sempre, grazie a Dio, una meglio gioventù in qualsiasi periodo storico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Caro Enzo Biaggi, caro Montanelli, so che siete molto in apprensione per me, so che siamo stati molto diversi, ma so che ci state seguendo con grande passione in questo momento. La verità è che non se ne può più di resistere. E secondo me ha ragione Monicelli, bisogna fare una rivoluzione civile, democratica e pacifica. Ed ecco Michele Santoro nella prima puntata di Servizio Pubblico su un network fatto di TV locale, digitale terrestre, Sky, radio, internet. Secondo i primi dati lo share di ascolto si aggirerebbe attorno al 12-14% in TV. Per quanto riguarda i risultati su internet, le prime stime parlano di 800.000 utenti. Sentiamo il commento di Gianluca Nicoletti. Ho guardato come tanti altri italiani il programma Servizio Pubblico di Michele Santoro. La mia osservazione è che era un programma tradizionalmente inteso, non aveva nulla di innovativo se non il fatto eroico di essere sfuggito comunque al gioco di un grande editore come quello della Rai e aver fatto lo stesso programma. Il programma aveva un carattere di novità nella sua distribuzione, è un programma multipiattaforma, cioè dimostra che oggi un'idea forte, un personaggio, un format televisivo che abbia comunque un mercato può comunque arrivare al suo pubblico anche uscendo da quello che è il circolo ristretto dei grandi editori e dei grandi sistemi di controllo appunto della televisione. Detto questo, Michele Santoro probabilmente ha dato una piccola sferzata di sveglia anche agli altri programmi di TV generalista che indubbiamente hanno hanno avuto una flessione. Nella serata televisiva ci si è accorti che è accaduto qualcosa. Ora, che questo accadere sia legato a un orario fisso, a una fruizione obbligata in una certa ora, anche seppur attraverso la partecipazione diffusa con i social network, dimostra che ancora la televisione, la vecchia, antica e classica televisione, deve esistere per dare dignità di esistenza anche ai nuovi media. Cambiamo argomento. Contestato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, da una trentina di disoccupati che hanno bloccato la sua auto blu per circa un quarto d'ora durante una manifestazione questa mattina. Sei come gli altri, gli hanno gridato battendo le mani sui vetri dell'automobile. I senza lavoro avevano tentato di parlargli senza però riuscirci. La loro richiesta è quella di essere inseriti nel progetto sulla raccolta differenziata. Per risolvere la situazione è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Si chiama Giuliano Melani, non è il patron della TOTS, ma come Diego Della Valle ha comprato una pagina del Corriere della Sera per dire la sua sulla situazione italiana. Questa volta però non per chiedere ai politici di andarsene, ma per chiedere agli italiani di comprare il debito pubblico italiano, che ammonta, lo ricordiamo, a circa 1.900 miliardi di euro. Lo ha intervistato Valentina Furlanetto. Non sopporto l'impotenza e allora ho detto che possiamo farcela anche da soli. Ho fatto una breve constatazione, qualche calcolo, e ho pensato che se continuiamo a fare manovre finanziarie ci uccidiamo. Invece, così, secondo lei, comprandoci il debito? Saremo il primo popolo al mondo che mette in salvo il proprio debito e non ci può più toccare nessuno. Lei è un privato cittadino? Privatissimo. Lavoro per un'agenzia di leasing, Unicredit Leasing S.p.A. E ha comprato una pagina di giornale che non è un investimento da poco. 20.570 euro IVA compresa, 17.000 più IVA perché il signore ha condiviso l'idea e ha detto che era il massimo sconto che mi poteva fare. Che seguito sta avendo? Mi hanno già scritto che lo fanno tutte le 1.000 persone che chiunque conosce normalmente. Poi ci sono tutti quelli che hanno scritto per dire, tipo giornali che sostengono l'iniziativa. Si tratta di garantire il riacquisto dei titoli in scadenza. Senta, è una provocazione la sua? La mia non è una provocazione, se facciamo questo siamo il primo paese al mondo che lo fa. Ed ora il nostro consueto appuntamento sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Le badanti sono un esercito numeroso di cui l'Italia ha assoluto bisogno. Nessun lusso, è il boom del welfare fai da te. Sono, secondo l'INPS, circa 1.300.000, ma almeno metà lavora in nero. E non solo, una buona parte ha contratti da collaboratrice domestica che permettono di denunciare redditi inferiori a 8.000 euro, la soglia sopra la quale devono pagare le tasse. Tasse elevate, perché l'aliquota è del 23%. Il risultato è una tassazione insostenibile per le badanti. Ecco un esempio. Olga, regolarmente assunta a 54 ore, prende da contratto 11.758 euro l'anno. L'aliquota da pagare, che era zero sotto gli 8.000 euro, schizza al 23%. Ma non finisce qui. Lo Stato vuole avere le tasse non solo su quello che Olga ha guadagnato, ma anche su quello che presume di guadagnare nell'anno in corso. Insomma, alla fine, tra riduzioni e anticipi, Olga la badante, che guadagna in un anno meno di 12.000 euro, ne vede volatilizzati in tasse quasi 2.400. Possibile? Sì, possibile. A quel punto chi può biasimare seriamente Olga quando dice che evadere le tasse sarebbe la soluzione migliore per lei e per il datore di lavoro? Un metodo ci sarebbe, basta con il nero, riforma fiscale, alzando la soglia delle esenzioni almeno sopra i 12-15.000 euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Termina qui questa edizione di GR24, vediamo un aggiornamento dalla Liguria, da Genova. La situazione è piuttosto complicata, drammatica, ci diceva il nostro corrispondente dalla capitale. E allarme pieno a Genova, leggiamo una notizia che è arrivata poco fa: il torrente Bisagno è al limite di guardia, mentre i torrenti Sturla e Ferreggiano sarebbero già tracimati a monte. Naturalmente più tardi, all'interno della prossima edizione di GR24, vi daremo maggiori aggiornamenti. Questa edizione di GR24 è stata curata da Maria Piera Ceci. Ringraziamo Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica. Al microfono Enrico Paglierini. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.